281. Tordifinti perché li rammenta l'odore del ginepro e un poco anche il sapore della composizione. È un piatto che può piacere e farete bene a provarlo. Magro di vitella di latte senza osso per 6 tordi, grammi 300. Coccole di ginepro numero 6, fegatine di pollo numero 3, acciughe salate numero 3, olio cucchiaiate numero 3, lardone quanto basta. Questi finti tordi devono aver l'apparenza di bracioline ripiene, quindi della vitella di latte fatene 6 fette sottili, spianatele, date loro una bella forma e mettete da parte i ritagli. Questi, coi fegatini, un pezzo di lardone, le coccole di ginepro, le acciughe nettate e una foglia di salvia, formeranno il composto per riempirle, e però tritate il tutto finissimo e conditelo con poco sale e pepe. Dopo avere arrocchiate le bracioline con questo composto, fasciatele con una fetta sottile del detto lardone. Frapponendo fra questo e la carne mezza foglia di salvia e legatele in croce, grammi 60 di lardone in tutto credo potrà bastare. Ora che avete preparato le bracioline, ponetele a fuoco vivo in una sauté oppure in una cacciaruola scoperta con le dette 3 cucchiaiate d'olio e conditele ancora leggermente con sale e pepe. Quando saranno rosolate da tutte le parti, scolate l'unto, lasciando però il bruciaticcio in fondo al vaso, e tiratele a cottura col brodo versato a pochino per volta, perché devono rimanere in ultimo quasi asciutte. Mandatele in tavola slegate, sopra 6 fette di pane appena arrostito e bagnate con l'intinto ristretto rimasto dopo la cottura. Sono buone anche diacce!